Io sono il rappresentante di uno Stato considerato geograficamente periferico. Allo stesso tempo ho da osservare che Stati centrali, a cominciare dalle due maggiori economie dell'Eurozona, la Germania e la Francia, sono stati all'origine della crisi del patto di stabilità e di crescita e della sua limitata credibilità nel 2003, quando, con la complicità dell'Italia che presiedeva allora il Consiglio Ecofin, quei due paesi hanno preferito esercitare la loro influenza politica sugli altri Stati membri per, in buona sostanza, rompere il meccanismo di enforcement e di applicazione delle regole. Questa è una cosa che oggi viene riconosciuta dai governanti sia di Germania sia di Francia, quindi non sto dicendo niente di sgradevole verso i miei colleghi, cancelliere tedesco e presidente della Repubblica francese, ma è un fatto che un grande vulnus alla credibilità della disciplina di bilancio è venuto dal punto centrale dell'Eurozona che aveva con grande merito storico istituito e promosso quella disciplina di bilancio. Non possiamo quindi dimenticare che ci sono responsabilità del centro, così come della periferia, perché è vero che diversi stati della periferia, in qualche momento anche quello che qui rappresento, si sono troppo lasciati andare verso l'indisciplina di bilancio. Ma non esistono nell'Unione Europea i buoni e i cattivi. Dobbiamo tutti sentirci corresponsabili, sia per le cose fatte in passato, sia soprattutto nella costruzione dell'avvenire.